Inizia ora Music for You. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for You, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood 97.8, Radio Sandonà 102.200, secondo appuntamento su Radio Sherwood e ormai Favotto, buonasera. Buonasera al Terzariol, tutto anche bene? Anche da troppo su Radio Sandonà, ospiti questa sera con noi, giochiamo in casa, proprio in casa, cioè con la tifoseria che ci vuole bene, i Gain on Top con noi. Eccoli! Saluti, ciao, ciao ragazzi, salve, salve a tutti quanti. Da una vita si diceva che questo programma sarebbe stato rilevato dai Gain on Top, questa è la prima fase, come sull'albero degli zoccoli sono arrivati i mezzadri. Gain on Top, l'altra volta c'era ospite con noi solo Simon Phonic, per carità siamo stati bene, ma questa volta si è portato dietro anche il socio. Super socio Bogoni. Salve, saluti, ciao ciao. Ciao Bogo. Noi siamo annichiliti, sappilo. Oh madonna, addirittura. Ti vogliamo molto bene, sappilo. Grazie. Poi Simo ci ha già detto e ridetto tutte le sue esperienze. Tu invece per che cosa ti contraddistingui, oltre a fare tutto il lavoro? Perché Simofonica non fa niente. Sì, infatti. Sì. Così senza, perché sono bello. Sì, esatto, Simofonica è quello bello. Io sono quello operativo, dai. No, beh, insomma, diciamo che appunto al di là dell'esperienza Gain on Top, che appunto è cosa relativamente recente, anch'io come Simone ho una, diciamo, definiamola carriera un po' così eufemistica. Insomma, comunque anch'io ho fatto per tanti anni, faccio tuttora il DJ di produttore con l'H di Electrobugo. Anch'io ho una passione non molto nascosta, anzi abbastanza plateale, per quello che è il rock and roll, che è un po', diciamo, il punto da cui sono partito. Poi anch'io negli anni sono approdato all'elettronica, sia come produttore che come, diciamo così, musicista, ma insomma le mie origini vengono dal rock. Ho suonato per tanti anni in una band local che ha avuto anche una discretissimo e molto poco conosciuto seguito anni e anni or sono, ma insomma, quindi insomma il terreno che ci ha un po' accomunato è stato proprio quello del rock, dove ci siamo incontrati e conosciuti. Occhio alla domanda che ti farà star male, perché sì. devi pensare, tu hai per caso mai suonato a Berlino? Pensaci. Oh, devi darmi una risposta, perché i tempi radio sono corti. No. Perché la storia d'amore tra me e Bogoni, questo è un aneddoto, comincia, penso, era l'ottobre 2008. Sì. Entrambi eravamo di ritorno su un aereo da Berlino, della EasyJet. Io l'avevo visto, lui non sapeva chi fossi io. Io ho detto, ah, guarda. E niente, era molto probabile. Eri sì, lì sì, con sì, la sì. tua fiancée. Eh sì, quasi, ormai quasi futura moglie, do anche questa anteprima. Sì, dai. I Gain on Top ci invitano al matrimonio. Che meraviglia! No, un Gain on Top, specifichiamo che l'altro non si sposa. Vabbè, l'importante è che qualcuno paghi. Che qualcuno ci dia da mangiare. Noi vi facciamo una bustina con dentro una compilation masterizzata a due soldi. Sarete i benvenuti, ovviamente. Ci mancherebbe altro. E se serve un disc jockey qualsiasi, facci sapere. No, ma noi sappiamo anche suonare la fisarmonica. Io sarei più orientato verso quello. Se è possibile. Se no, il flautino di plastica delle medie. Sì, esatto, il piffero. O come si chiamava quell'altra? Pianola. La tastierina, no, aveva un altro nome. Quella a bocca. Io sì. L'ho sempre chiamata pianola a bocca, poi vedi tu. Vabbè, armonica, vada, no. Vada per pianola a bocca, va benissimo. Vada per pianola a bocca. Insomma, invece andiamo incontro a Simofonica, che non ha detto niente, stava fissando un bicchiere di plastica vuoto. No, voglio andarmene perché mi sento emarginato, scusate. Ma invece ora tu puoi essere un gran protagonista, perché la prima traccia l'abbiamo scelta anche per te, perché andiamo con gli Stereophonics, un gruppo a te molto molto caro e che piace anche a noi. Eh sì, e tra l'altro il gruppo che mi ha fatto decidere il giorno da andare all'Heineken Jammy Festival prossimo. Che sarà quello con i Black Eyed Peas, suppongo. No, esattamente, non è quello, ma sarà il primo. Dunque, Lele, se sei in ascolto, mettimi pure l'accredito per il primo giorno. E tra l'altro questa è una canzone incredibile, bellissima, e ci ha spiegato un aneddoto l'altro giorno. L'hai spiegato sì. a me, ah, però? Scusami. Praticamente l'ultima volta che ho suonato al Bar Roma, e proprio per questa, nel 2000 ho suonato per l'ultima volta, ho messo da Dakota, mi hanno cazzato e mai più chiamato, ma sono contento di questa, andate a fanculo. Guarda, io ti avrei richiamato 200 volte. Ecco, sì, io ti avrei anche dato dei bagigi in più probabilmente. Insomma, non era neanche pagato, tra l'altro. Tu sei anche andato a vederteli, mi pare di ricordare, a Milano. A Milano, là, sì, 3 mesi fa circa. E si diceva che con Dakota hanno spaccato tutto. Forse Dakota... era anche la in chiusura di concerto, sì, era l'ultima. L'ultima è stata Dakota, che credo che sia quella con Maybe Tomorrow relativamente più famosa, insomma, loro. Loro traggono ispirazione da una commistione di Britpop e ben altro, un po' esita. Che cosa pescano, Simo, secondo te? Ma loro credo che siano un po' più americani come sound rispetto al Britpop usuale dei Blur, degli Oasis, dei Pulp. Però c'è la voce di Carly Jones, che è, diciamo, uno strumento in più per questa band. Io mi ricordo due album strafighi: Performance and Cocktails e Jeep, Just Enough Education to Perform. Li ho ascoltati in Inghilterra quando ero piccolo, andavo all'H&B. Io, se posso dire la mia, uno dei miei preferiti è You Gotta Come Back e via dicendo, che sono due o tre ballate veramente notevoli. E Dakota invece è preso da Language, Sex, Violence, Other, se ben ricordo il titolo. Sì, tutti titoli facilissimi. Tutti da codice fiscale, sì, quelli, esatto. Quelli che aiutano e fanno quelli che aiutano la memoria, però quando li dici fai molto figo, vai fuori, no? Dici l'album degli Stereophonics e gli tiri via questo nome lunghissimo. Sì, in realtà c'è un poster 6 metri per 3 in radio con tutti i titoli scritti a caratteri cubitali, quindi in realtà è tutto. Non dovevi tutto. Dirlo, però esatto, va bene. Cioè, silenzio, non dire nulla. È la cosa più recente che c'è in questa radio, comunque, oltre ai conduttori. Grazie, veramente. Vabbè, grazie. Sui conduttori ho dubbi, in realtà. Noi, in dopo realtà, 6 minuti e 50 di cialtronerie assolute, potremmo anche cominciare ad ascoltare, perché la gente si taglia le vene per lungo, presumo sia cosa nota. Quindi iniziamo a suonare questo stato americano. Prego, Terzariol. Dakota e gli Stereophonics su Radio Sherwood, Radio Sandonà 102.200. Questa è Music for Youth. Lay back, head on the grass. Dakota degli Stereophonics su Radio Sherwood 97.8, Radio Sandona 102.200. Su Radio Sherwood siamo in onda il martedì alle 17.30, Radio Sandona, gli orari di sempre per voi che ci ascoltate affiliati. 22 il mercoledì in replica, lunedì successivo alle 21. Al Visa Favotto è tempo di fare domande ai nostri ospiti Gain on Top questa sera barra pomeriggio, quando cavolo volete, se ci state ascoltando in streaming. Comunque ci sarà ancora la luce fuori. Cari Gain on Top, è bello avervi qui innanzitutto, e io so che voi siete quanto mai stacanovisti in questo periodo, nel senso che lavorate e basta. Perché? Beh, se vuoi chiamarlo lavorare, insomma, a me va benissimo. No, abbiamo appena finito di registrare, di produrre un nostro EP estivo che si chiamerà Summer in Hammer, che è di prossima uscita, fra un paio di lunedì, insomma. Poi mi spieghi perché estate nel martello, vero? Sì, più che altro Hammer è inteso come macchina. Ah, bello, caldo, che era, piace. Sì, apre Magic, esatto, per loro. Era un po' per prendersi in giro, insomma, tutto questo mondo alla 50 Cent, è un po' autoironico. Esce questo EP con quattro pezzi, che sono effettivamente quattro generi diversi, sempre elettronica o house si parla, però c'è un disco prettamente house che è quello che ascolteremo dopo, c'è un disco che è prettamente elettronica, uno che è electro-techno e l'altro che è una cosa un po' più funky, un po' più stilosa, che è di profilo. Quando esce il disco? Beh, facciamo parlare... Ma prego, sua maestà, prego. Oh, beh, addirittura... No, allora la data precisa non la so, nel senso che con queste uscite digitali si fa sempre un po' di... si fa fatica a sbilanciarsi, perché appunto possono esserci qualche ritardo dovuto magari ai portali che non sempre sono corretti nelle tempistiche che danno. Ragionevolmente direi che per metà giugno il disco sarà disponibile su iTunes, su Beatport e su Juno, che sono appunto i tre principali portali, al di là di iTunes, che diciamo è un portale che sicuramente tutti conoscono. Beatport e Juno sono i due portali principali dedicati, se non quasi esclusivamente, ma insomma per la maggior parte, diciamo, alla musica elettronica, alla musica dance in tutte le sue forme. Quindi insomma ci entrate, gente, e lo scaricate, per cortesia. Ah beh, chiaro, sì, non si chiama a caso Summer in Hammer, perché con i soldi che faremo di questo EP ci compreremo l'Hammer, ragazzi. Sì, dunque, dai, una ruota dell'Hammer, sì, e poi lo mandate su Pimp My Ride, esatto. e lo fate rosa con gli adesivetti di Hello Kitty. Sì, la versione italiana, io Pimp, che... cos'era? Pimp il mio motorino, sì, esatto. Ma più che altro parliamo anche della Toons Records, che è la vostra esperienza di casa discografica, possiamo chiamarla così? Sì, beh, sì, direi proprio di sì. È una digital label, se vogliamo fare un po' i fighi. Ho visto un po' di affiliazioni, anche perché abbiamo provveduto a linkarvi sul nostro blog. Beh, non so se l'abbiamo già fatto, ma se non abbiamo già fatto, domani o già stasera sarà fatto. Tranquilli, tanto noi non vi portiamo niente. Beh, diciamo che anche appunto l'idea di Toons Record, che era un'idea che io accarezzavo da diverso tempo, e poi insomma grazie a Simone e a tanti altri ragazzi che con me, oltre a parte Simone, insomma, che ha un ruolo chiaramente di primo piano all'interno dell'etichetta, ma anche un altro paio di ragazzi più giovani che ci danno una mano, tra cui Marcati, che è stato ospite qui anche lui, Gianluca Marcati. E la volontà era quella. Io sono sempre stato un fautore del do it by yourself come filosofia. Do it yourself. Sì, yourself, scusate, che vergogna. No, tranquillo. E nel nostro piccolo abbiamo sempre desiderato e cercato di, in qualche modo, di convogliando le forze, cercando di coinvolgere più gente possibile e quant'altro, di dar vita a un minimo di scena, per quanto local, per quanto molto localizzata, per quanto sempre ristretta in confini che per carità sono abbastanza appunto ristretti, ma che in qualche modo, un po' per attitudine, un po' perché appunto io abbiamo sempre avuto tutti la voglia di cercare il proprio spazio all'interno della propria realtà, senza dover necessariamente per forza di cose doversi affidare a qualcun altro, eccetera. Quindi al momento dell'uscita del nostro primo pezzo, che fu il remix di Colpo Grosso, che ebbe insomma un notevole successo. Beh, insomma, sì, siete voi stati DJ, insomma, sì, no. Tutta una serie di le frequenze. Moderne balere vi apprezzavano molto. Sì, dai. E lì appunto abbiamo avuto questo spartiacque, abbiamo detto o appunto possiamo provare la strada di affidare il pezzo a un'etichetta, a una label già famosa, magari appunto cercando di insistere, magari ricevendo molti no, però poi magari forse da qualche parte ci sarebbe andati, oppure provare la strada ben più tortuosa ma al tempo stesso più affascinante di dire ma perché non facciamo noi un'etichetta nostra, che può essere l'inizio per produrre le nostre cose, ma anche un'opportunità per produrre musica di altri ragazzi che ci piace e con cui abbiamo una affinità. Quindi da questa piccola esperienza è nata un piccolo cerchio di ragazzi, alcuni sono anche molto giovani e noi appunto ne siamo anche molto orgogliosi, che hanno la possibilità tramite l'etichetta e tramite una qualche aggancio editoriale che siamo riusciti a mettere in piedi a far uscire i loro pezzi sui portali principali della musica dance mondiale. Quindi insomma è una piccola soddisfazione, una piccola gioia. E chiaramente gli obiettivi sono molteplici, ci piacerebbe produrre una band, ci piacerebbe produrre anche musica sì, che abbia sempre il tunes factor, come lo chiamiamo noi, però che sia il groove fondamentalmente, che poi sia hip hop, rock, punk, poco importa. E speriamo da qui ai prossimi anni di riuscire appunto anche a fare una virata verso quel senso, insomma. E dopo questo trattato discografico per il quale noi ci inchiniamo, Simofonic, visto che potrebbe darmi una mano prima o poi, quando fa voto deciderà di stare via in Scozia. Vai in Scozia che vengo qui. E io avrò bisogno di un conduttore. Come dire, mi sento in più. Ci può presentare il loro pezzo, che è una cosa che facciamo fare a tutti quanti, quelli che passano da queste terre. Allora direi in esclusiva mondiale, che dico mondiale galattica. Questo pezzo, come sempre, ce l'avete solo voi, come quella volta che vi ha portato Microcosmo. Grazie. Questo è il nostro pezzo più house, è venuto fuori così. Spero che chi ci ama per la nostra musica elettronica non si aspetti giù dalla radio dopo averlo sentito. Comunque è un pezzo prettamente house, si chiama The Bubble Struggle. Via, Gain on Top, su Radio Sondana 102.2, Radio Sherwood 97.8. Bubble Struggle degli Gain on Top, che resta in sottofondo per noi Radio Sandona 102.2, Radio Shadow 97.8. Fa voto, è il momento dei contatti. Esattamente, sei un dinosauro e vuoi scoppiare delle bolle? Chiamaci al 560993 proceduto dallo 0421. Mentre ti serve un compagno dinosauro per girare la freccetta e colpire le bolle, 560994, ci mandi un disegnetto via fax, noi capiamo e ti rispondiamo come usando il nostro indirizzo, che è radio@radiosandona.it. A questo punto passo la parola all'altro dinosauro che abbiamo qui davanti, con quei capelli soprattutto oggi, guarda. Vabbè. E abbastanza simile ai miei, tra l'altro, che ci dice il blog. Il blog. musicforyouth.wordpress.com, dove trovate questa puntata in streaming e in podcast sempre tutta la settimana. Altrimenti potete andare sul sito di Sherwood, c'è cioè la nostra pagina Music for Youth, e potete abbonarvi feed RSS e vi arriva in abbonamento ogni settimana la puntatina con 2,5 etti di crudo. Sì. Se fanno 2,7 etti vi dicono abbondiamo. Che faccio? Lascio. Lascia. Che problema c'è? Esatto. Non lasciano invece gli Strokes, che secondo me insieme hanno lasciato un parzialmente. Beh, un pochino sì. Un pochino sì. Beh, poi si sono dati anche dei gran progetti solistici. Infatti Julian Casablancas con River of the Blank Lights, si chiama così, Simo? Confermi? Non lo so. Ah, scusatemi, non lo ma, sai. Non so, so che si chiama Eleven Dimension, un disco che ha fatto. Il singolo. Ah, ho il CD di 9 canzoni, questo lo so, ma non mi ricordo come si chiama. Finalmente non sa qualcosa. Perché lui è quello che taglia, mi... Taglia, che vado un attimo a vedere, taglia un attimo Wikipedia. Lui è quello che mi corregge sempre. Fidati, per questa volta si chiama così il CD. Soprattutto Lele, per questa volta si è preparato delle mezze paginette a memoria su ogni gruppo. Di Divina Commedia, canto primo. Esatto. Di Bignami. Sì, esatto. Sempre caro mi fu. Vabbè. Si parlava di questi Strokes, dopo Julian Casablancas penso torneranno in studio a comporre qualcosa come gruppo, si spera, perché a noi sono sempre piaciuti. Da Room on Fire andremo ad ascoltare un loro pezzo, uno tra i più famosi. Avevamo messo tempo fa, cosa avevamo messo? You Only Live Once. Sì. E adesso è il tempo di Reptilia. Non è un video altrettanto bello come You Only Live Once, che me lo ricordo in una stanza con del petrolio e dell'acqua a marcia che gli arrivava fino alla gola. Cioè, i gay non topo fanno sì con la testa, per cui ho ragione una seconda nel volta. Nel senso che apprezzano il petrolio e l'acqua a marcia, penso. E me continuo a non apprezzarmi invece. Cosa dire, Favotto? No, niente, gli Strokes, grande gruppo. Io non finirò mai di suggerirvi tra i pezzi che potete ascoltare una cover dei Ramones, che è Life is a Gas. Eh sì. Per cortesia ascoltatela, è meravigliosa. A parte questo, Repetiglia su RSD 102.2 Radio Sherwood 97.8. Questa è Music for Youth. The Room on Fire, questi erano gli Strokes con Reptilia su Music for Youth. È arrivato il momento della canzone degli ospiti, quella portata da Bugo, tra l'altro. Che cosa ci porti di buono su queste frequenze? Allora, io ho scelto Transmission, che è, vabbè, un gran classico dei Joy Division, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Assolutamente no. Infatti, immaginavo. In questo caso, reinterpretata, rifatta, da un'altra band che amo molto, molto più contemporanea, sì, più contemporanea, non molto più contemporanea, perché credo che nulla sia più contemporaneo dei Joy Division. Bravo. Che sono gli Hot Chip, diciamo un po', ecco, forse più cool, nel senso un po' più alla page. Beh, diciamo una commistione, esatto. Infatti l'ho scelto proprio per questo, perché ci sono i tre elementi che più mi piaceva portare in radio, che sono appunto la radio, perché Transmission di fatto è una canzone che celebra la radio e dice appunto dance to the radio, quindi insomma molto simpatica. Gli Hot Chip, che sono appunto un sound contemporaneo molto fresco, molto vivace, e i Joy Division, che sono una pietra miliare senza le quali probabilmente nemmeno io ascolterei musica, perché sono uno dei miei gruppi preferiti da sempre. Per curiosità, è difficile adattarsi al pubblico quando mettete su musica, perché voi sì, fate electro e tutto il resto, ma siete molto più rock di quanto si pensi, no? Sì, no, beh, io credo di no, nel senso che credo che molto spesso il fatto di... bisogna evitare di essere presuntuosi, cioè nel senso di mettere della musica che piace solo a se stessi e che magari non sempre può arrivare. Al tempo stesso bisogna sempre tenere in conto il fine, che è quello di un DJ set, che è quello di far ballare, di far divertire. Se si trova l'equilibrio tra queste due forze, io credo che si possa ballare di tutto in qualunque contesto. Noi ci siamo trovati in delle situazioni veramente rischiose, in cui abbiamo messo, che non so, rock and roll dei Led Zeppelin in una serata di clubbing pura, eppure ha funzionato. Cioè, nel senso, l'importante è sapere se tu ti devi sentire dentro, se quello è il momento in cui puoi farlo. Se tu decidi che puoi farlo, lo puoi fare, si può fare. Si può fare. Si può fare, Favotto. Sì, anche perché non sembra abbastanza riduttivo, io immagino. Volendo fare due secondi di serietà, sembra abbastanza riduttivo fossilizzarsi su un genere solo. Allora io immagino che l'ascoltatore che va a sentirsi una serata di house, magari nella sua vita non ha sentito solo house. Voglio sperare per lui. Beh, sì, perché sennò veramente... Diciamo che gli inglesi hanno molto da insegnarci in questo senso. Ricordo negli anni d'oro del Manchester, in cui era molto frequente vedere una band come gli Happy Mondays, piuttosto che gli stessi Oasis, piuttosto che a seguire il DJ set dei Chemical Brothers. E il pubblico era lo stesso, nel senso che c'è un tempo, secondo me, giusto per ballare, c'è un tempo giusto per ascoltare, c'è una musica ottima per fare festa, c'è una musica ottima che da vedere dal vivo, e non è detto che le due cose si escludano, anzi, molto spesso vanno a braccetto. E c'è anche una musica ottima per mezz'ora di questo programma. Siamo arrivati esattamente alla metà, quindi via con il pezzo che ci ha portato Bogo. E noi andiamo negli spogliatoi. Hot Chip con Transmission, una cover di Joy Division. danza, danza, danza alla radio su Radio Sherwood e su Radio San Donà, sempre in compagnia di Music for Youth. Questo qui davanti è il Terzariol, Daniele, di qua alla mia sinistra i Gain on Top assolutamente svaccati, io parlo. Pensa che cosa non, cioè che problemi non produce la radiofonia. Parla, allora, perché noi per la seconda volta in questa trasmissione abbiamo un grosso problema con il rosa. Era una battuta che avevo già fatto, ma... Esatto, ma è sempre bello riproporla, perché è così che nascono i tormentoni. Riesumiamo come si fa all'obitorio. Esatto. E si parla dei Big Pink, ecco perché è il problema del rosa. Esatto, oh, grandi e rosa. Humor inglese a palate, tutti che ridono, immagino. Soprattutto l'Inghilterra. Big Pink che tornano su queste frequenze dopo aver presentato Dominos, ora è il tempo di Tonight, che è il nuovo singolo in uscita in questi giorni anche in Italia, ma lo trovate già su iTunes e tutti gli altri portali insieme al prossimo EP dei Gain on Top, scaricatevelo. Tra l'altro Tonight, titolo originalissimo, vorrei dire, sì, cioè così si contraddistinguono, sì, insomma. Infatti, proprio, cioè, io capisco non dare titoli troppo lunghi, però diamo Tonight, che è già stato dato da più o meno chiunque. Penso anche Will Smith nella sua breve carriera. Sì, anch'io colpifero ho una Tonight. Insomma, questi Big Pink sotto la 4AD Records, un'ottima casa discografica dei tempi che furono, ora un po' più impannata, non nel senso che c'è della nebbiolina sui loro vetri, impanata. Impanata come le cotolette. Esatto. Tentano anche, sì, insomma, di costruire qualcos'altro, quindi le cotolette, perché stanno andando un po' in giù con la casa discografica, quindi è impanata. Queste battute sottili che vi fa il vostro conduttore preferito. Tre gradi di parentela, riesce ad arrivare in qualunque argomento. Esatto. Con due boiate grossissime. Tra l'altro, dopo vi suggerisco un sito a proposito di questo. No, vabbè, andiamo puoi suggerirlo adesso? Sì, prego. C'è questo sito che me l'ha detto, cioè, l'ha detto in onda l'amico Nicky. Si chiama Six Degrees of Black Sabbath. Voi mettete dentro qualsiasi, cioè sono due caselline, mettete un gruppo di partenza, un gruppo di arrivo, non so, uno a caso, Oasis e Vasco Rossi, che è l'esperimento che ho fatto io prima. Loro vi fanno vedere in 6 gradi, appunto, 6, 8, 5, quelli che sono, che c'è tra ogni cantante un qualcosa di parentela, non parentela nel senso che siamo cugini, ma qualcosa che c'entra tra Vasco Rossi e gli Oasis. Ma c'è per veramente un sacco di cantanti. Cioè, che ovvio, non mettete Gigliola Cinquetti, perché non c'è. Ma che però... cosa si trova tra Vasco Rossi e gli Oasis? Cioè, adesso al momento non me lo ricordo. Cioè, c'è qualcosa tipo il chitarrista degli Oasis ha suonato anche con uno che ha preso sotto il cugino di Vasco Rossi, per sbaglio. Il platano con il nome di quello, esatto, che si è schiantato. Io ho provato a mettere anche Lele Terzariol al Vise Favotto non è venuto fuori niente. Esatto. Errore 404. Esatto, infatti. Il classico 404. Infatti. Comunque vi suggerisco, perché se siete appassionati di musica, veramente è una figata. Il classico errore fatale. Cioè, schermo rosso lampeggiante. Uscito, accetta il mistero. E intanto l'ha detto Raz de Gam. Accetta il mistero. Esatto. Su RSD. Io questa sera non ho voglia di carne, Terzariol. Va bene. Metti su i grossi rosa, per piacere. I Big Pink su RSD 102.2 Radio Sherwood 97.8. Questa è Tonight, il loro ultimo album, A Brief History of Love. Take a part of my life. Da A Brief History of Love Tonight dei Big Pink. Favotto, è il tempo delle domande serie ai nostri ospiti Gain on Top. È il tempo delle mele. Allora, cari Gain on Top, questa sembra sempre più una posta del cuore. Comunque, allora, io voglio sperare che avvicinandosi l'estate voi iniziate a suonare in giro moltissimo, così io e Lele possiamo dare un senso alle nostre serate che altrimenti passeremo guardando dei tombini aperti. Allora, diteci quando suonate. Beh, abbiamo il tour delle sagre delle osterie che inizia sabato questo. Sapete che la troviamo noi proprio la postazione ideale per la nostra musica. Verranno distribuiti bovoletti ai primi 50. Esatto, bovoletti e non mi viene in mente polpi. E polpi. E masenette. E masenette. Aprono loro per Giuliano e i Magnifici. Sì, no, scusa se mi intrometto, ma Clay nel poker sono i miei preferiti. Restando seri, domenica questa, cioè il 13 giugno, suoneremo un appuntamento che è abbastanza rinomato in zona, è il terzo anno, mi pare, o quarto che lo fanno, si chiama Laguna Beach Party, che è Raclea Mare, precisamente alla Laguna del Mort. Se volete sapere altre indicazioni chiamate Alberto Tonetto, che lui sa tutto su quella lì, chiudo la parentesi. Tones, ci pensa lui. Sì, Tones sa tutto. E poi vi dico le date confermate, perché ne abbiamo altre in dirittura d'arrivo, però finché non sono confermate non le diciamo. Saremo il 24 luglio sempre qua in zona, cioè a Rock and Dock, una serata che è a noi cara, che è Sby Night, di cui abbiamo parlato l'altra volta. Il 14 agosto invece saremo al Cursal di Lignano insieme ai Cyberpunkers. Questo è quanto per il momento. Dopo il 26 giugno, giusto, abbiamo un altro appuntamento che non è esattamente Gain on Top, ma è Gain on Rock, che è questo acronimo che abbiamo tirato fuori per i momenti in cui facciamo un po' più di rock rispetto all'electro, e suoneremo all'after show dei Crisma. Resuscitati Crisma, non so se sono vivi o morti. Sì, al Cambretti Night, sì, esatto. L'elettrocardiogramma non era ancora piatto. Esatto, per cui... qui in piazzetta il Campiello a San Donà di Piave. Dicono che li portino con un furgoncino Bofrost e li scarichino. Esatto. Con del ghiaccio. Poi si scongelano durante il pomeriggio e suonano la sera. Sono contento di suonare dopo, prima di loro, perché vorrei ricordare che Crisma, che si chiamavano all'epoca, non mi ricordo come, però hanno aperto i Beatles al Vigorelli nel 65. E hanno portato anche qui la New Wave, sono uno beat italiano. Quindi per la famosa teoria dei gradi di parentela, quando noi digiteremo Gain on Top e Beatles, verrà fuori che abbiamo aperto i Crisma, che hanno aperto i Beatles. Meraviglioso. E siete a un grado dai Beatles. Gain on Top, ragazzi, tutto. Invece parliamo dei Baby Shamble, un altro gruppo caro a Simo, che gli piacciono veramente tantissimo. Infatti forse nella puntata in cui ti abbiamo ospitato abbiamo messo in chiusura Pete Doherty. Sì, Last of English Roses. Sì, quanto siamo bello. Referenziali, però. Tutto si collega. Digiti Simofonica, Baby Shambles, viene fuori Music for You. E poi lì il solito 404 Not Found. Esatto, sì, infatti. E un reinstalla il programma per intero. Sì, sai quando è sul Monopoli che tiri sulla cartellina imprevisti, ecco. Insomma, Baby, la cosa più bella del mondo. Baby Shamble saltano fuori dai Libertines, quel poco che è rimasto quando se n'è andato Carbarat, Simo, non mi ricordo assolutamente. Se n'è andato lui, ha detto saluti e baci a Pete Doherty, che lui si metteva... Se n'è accorto per 6 mesi. Sì, ma... perché nel frattempo stava... 6 mesi dopo. O assumeva droghe. Da chi? Pete aveva il suo animale guida intanto che gli permetteva comunque di approcciarsi, sì, alla tra vita. Non si è accorto che o stava limonando Kate Moss. Infatti l'animale guida era Kate Moss. Esatto. Che intanto incideva ancora quel singolo Sun Velvet Morning. Con i Primal Scream. Con i Primal Scream. Intanto lui si drogava e tutta una serie e di cose. E presenziava anche ai Just Don't Know To Do With Myself nel video dei White Stripes, e con questa vado a casa. Mannaggia, ma quanto ne sa io adesso, mi alzo. È stato calato il full d'assi, esatto, al full di cotonio proprio. Sì, fai fatto. No, niente, beh, ovviamente, cioè, poteva drogarsi, poteva farsi Kate Moss, poteva fare entrambe, ovviamente ha scelto di fare i Baby Shamble. Sì, ma tra l'altro Kate Moss, autolesionismo in tutto questo. Kate Moss è anche nei cori di questa canzone e non ha chiesto una royalties. cioè proprio una, anche perché, cioè, voglio dire, secondo me è stata pagata in vuoi chiedere maniere. Anche soldi pure queste cose, cioè, già, bene, già ti piovono addosso i milioni, ma anche sì. Se sbadigli, io mi vedo Pete Doherty che ma dai limoniamo dopo e le royalties, sì, esatto. A sti saluti, come si suol dire. Shooter Nation è la seconda prova di questi Baby Shambles. L'album è stato pubblicato nel 2007 dalla Parlophone, che è una major, anche se a noi non piacciono tanto, però no, la però musica dobbiamo pur passarla. Ogni tanto fanno anche cose decenti, via. Cosa dire, li lanciamo, ascoltatevi, se non dal balcone, perlomeno via radio. Ascoltatevi Pete e Pete sarà contento. Pete dei Baby Shambles, su Radio Sherwood 97.8 e Radio Sandona 102.2. Radio Sherwood. Music for Yout. Yout, questa è You Talk. Talk, Baby Shambles, Music for Youth, sempre in compagnia dei Gain on Top. E non si parla più di voi in questo momento, ma si va a parlare della scelta musicale del qui presente Simo Phonik. In realtà, con una connessione telepatica tra me e Albert Hammond Jr., ho scritto Scared, che è il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare. E anche qua tutto si ricollega, perché prima abbiamo ascoltato gli Strokes, ora c'è Albert Hammond, che è più o meno la sonorità è quella. Questa è una ballata, è il pezzo che preferisco dal primo album, che si chiama Yours to Keep. Perfetto, guarda, fa tutto lui. Ma volevo solo aggiungere che Albert Hammond Jr. ha lo stesso commercialista di Simo Phonik. Oh, ed è al piano qui sotto, esatto, al secondo. Si chiama Daniele Terzariola, andateci, perché insomma fa sì. E poi se andate verso sera vi fa anche una pepatina di cozze, che non è niente male. Niente male, è vero, ma si fa apprezzare. Sì, anche offre la spuma e via. Un'ombra per me, una spuma palboccia, esatto, come si suol dire. E cosa dire, poi sono anche il classico commercialista che si prende avanti con le pratiche, tutta una serie di frasi fatte che possono accendere il passo alla musica. Non ci sono di... più le mezze stagioni, per piacere metti sto pezzo. Provvedo subito da, come si richiama? Yours to Keep, sì, ma l'album... se l'album... non ci fosse lui cosa faremmo? Yours to Keep è l'album, la canzone si chiama Scherzo. Perfetto, RSD 102.2, Radio Sherwood, 97.8, Albert Hammond. Di Albert Hammond Jr., questo era il pezzo che ci ha portato Simofonic e Bogo per i Gain on Top, ospiti con noi. Siamo in chiusura di puntata, giusto il tempo per ricapitolare qualche contatto: 560993 il telefono, 560994 il fax per dirci quanto facciamo schifo e scrivercelo a caratteri cubitali. Usate il fluo che a noi piace. Sì, sì, glitterate, gente. Glitterate via fax, non sappiamo come potete fare. Ma no, fare, ma lo fate, vabbè. Lo fate e basta, senza che neanche... È imperativo categorico. Assoluto, tra l'altro. radio@radiosandona.it per contattarci via mail, altrimenti ci trovate sulle pagine di Facebook, il gruppo è Music for Youth. Cos'altro dire? Niente, Albert Hammond... Abbiamo un blog, sì. Sì. musicforyouth.wordpress.com, abbiamo la pagina su Sharewood, dove vi potete scaricare il podcast e tutto il resto che vi piace. E basta. Volevo, no, l'unica cosa che si può dire: Albert Hammond, tra l'altro, un cognome, un organo. Comunque, Albert Hammond ci ascolta. No, ma che cosa ascolta? Ascolta i Gain on Top. I Gain on Top che noi abbiamo qui. Siamo ancora tutti sudatici per averli e gli facciamo dire i loro contatti. Mate. Ah, bene. Beh, direi molto semplicemente www.gainontop.com e da lì ci sono tutte le finestre, potete andare sul nostro Facebook, MySpace e quant'altro, molto semplice. Sul sito si può fare tutto, si possono scaricare i brani, comprare la musica, vedere i video, fare donazioni. Esatto. Donazioni, sì. Sottolineato. Donazioni non di organi, grazie. Esatto. Ne abbiamo già a sufficienza. Anche Albert Hammond ce n'ha. Attività illecite nostre, abbiamo già organi a sufficienza. Sì, sì, sì. E potete scaricare anche dal loro sito gainontop.com il prossimo EP in uscita, del quale abbiamo presentato una canzone oggi. Grazie per averla portata in anteprima. Certo, e anche già ascoltarla in anteprima e scaricarlo e comprarlo non appena sarà disponibile nei vari portali. Dire che eravamo indecisi di portare il Babbo Strangolo a voi o la BBC, però dopo ma forse perché così avete risparmiato della benzina. Esatto, e la siete giocata qua. Comunque stasera siamo ospiti da Davide Letterman, saremo lì dal vivo, perché sai comunque andare a New York in macchina ultimamente tutti sti semafori, il ponte poi ogni tanto viene su acqua, sì, perché esatto. Ti tocca fare il giro dall'altra parte, poi secca sta cosa che devi ancora pagare il ponte di barche sull'Atlantico. Io guarda che a me secca sempre, non so come mai. L'abbiamo finita di dire cialtronate assolute, sì, e andiamo in chiusura di puntata con, per la rubrica Meteore, presentiamo i LAS, un altro gruppo che piace parecchio a tutti qui dentro, quattro teste a cui piacciono i LAS. Esatto. Chi sono sti LAS? Una band che è riuscita a fare un solo album e un ottimo singolo, forse due album, Simofoniche. No, volevo solo dire che i LAS, questa è veramente una freddura orribile, sono il gruppo che si è sciolto dagli Attivi. Momento. Scusate se mi licenziano da Radio Sharewood per questo. Guarda che mi sa che non ti prendo come conduttore nel caso Favotto se ne vada, piuttosto registro da solo. Questi LAS che presentano Where She Goes, poi rifatta anche da altra gente, sì, senza né capo né coda. Loro, tra l'altro, mai ufficialmente sciolti, fra parentesi, nell'acido. I LAS possono essere considerati i pionieri un po' del Britpop. Possiamo dirlo. Perché no? Da quando hanno cominciato a suonare loro, poi sono arrivati gli Oasis, sono arrivati i Blur, che loro se la sono presa un po' in anticipo. Era Liverpool 1986, dice il foglietto qui davanti. Ecco, e a questo punto, niente. There She Goes, canzone secondo noi strabella. E con questo salutiamo la radio del Bosco Britannico e la nostra consueta Radio San Donà, sita in via Cesare Battisti, qui vicino all'Argine. E ringraziamo tantissimo, sì, i Gain on Top per essere stati con noi. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao, è stato un piacere anche per noi. Grazie a voi dei soldi per venire. Speriamo di risentirci presto su codeste frequenze. Sì, ci scusiamo con David Letterman perché li abbiamo noi e tu no. There She Goes su Radio Sherwood 97.8 e Radio San Donà 102.2. Questa è Music for Youth.